A tempo di sport di Gigi Garanzini. Come avete sentito anche al giornale radio, Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli, notizia che ormai era certa sin da ieri, ma che adesso è diventata ufficiale. La società sportiva Calcio Napoli comunica di aver sollevato l'incarico di allenatore della prima squadra Roberto Donadoni, affidando la guida tecnica a Walter Mazzarri. Decisione indispensabile, spiega il presidente De Laurentiis, per dare nuovo impulso alla stagione azzurra e in chiave futura per il prossimo quinquennio. L'interruzione del rapporto è stata comunicata a Donadoni dal presidente stesso nel corso di un incontro avvenuto a Roma. Con Donadoni l'esonero comprende anche i due vice allenatori, Bertolazzi e Buso, il preparatore atletico, insomma lo staff intero. Walter Mazzarri verrà probabilmente presentato già in giornata. È una sosta questa, una sosta internazionale di ripristino, e sto pensando, non so, a gente come Milito o come Totti, che avrà la possibilità di recuperare, se non in tutto, almeno in parte, dagli infortuni, ma ce ne sono anche tanti altri. Ma è una sosta anche di grandi cambiamenti. Stamane la Triestina ha esonerato Gotti e ha ingaggiato il nuovo allenatore Mario Somma. Ieri era toccato al Brescia, che ha sollevato dall'incarico ma aiuta Fabio Tavelli. Ha sollevato Cavasin. Per Iachini. Grazie, sono arrivato a Iachini, lo sapevo, era su Cavasin che ho avuto un'amnesia. Ci saranno anche cambiamenti societari, perché è praticamente certa una svolta in casa Juventus con l'addio, o meglio la sollevazione dall'incarico del presidente, niente meno, Cobolli Gigli, con una promozione pro tempore a presidente di Blanc, che assumerà per qualche mese la doppia carica, cioè quella che già detiene di amministratore delegato e in più quella di presidente, per non parlare della possibile cessione niente meno che del Milan, che la Gazzetta dello Sport stamane comincia a presentare come un'ipotesi non più romanzesca e nemmeno così lontana. Potrebbe passare per esempio a questo imprenditore albanese Taci, ramo petrolio, perché i 750 milioni al cui pagamento la Fininvest è stata condannata evidentemente pesano, e più o meno quella, forse un 2 più 2 è un po' facile, ma insomma più o meno quella potrebbe essere la quotazione del Milan inteso come club. C'è un divertente corsivo di Massimo Gremellini che poi vi leggerò, corsivo ovviamente ironico, ma sarà poi da specificare ancora prima della lettura, perché con certe capocce in circolazione è sempre meglio premettere, e quindi l'avete già sentito, il bentornato a Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Grazie, buongiorno a te Gigi, e in ritardo auguri ancora alla radio. Auguri alla radio. Capitolo internazionale, un classico del martedì in cui si riassume quello che è accaduto nel fine settimana, quello che accadrà nei giorni prossimi, ma non solo. Certamente la cosa più strana, ecco, mettiamola così, che accadrà nel prossimo weekend sarà che l'Inghilterra, che dopo tanti anni di, diciamo pure, oscurantismo calcistico, parlo di nazionale, finalmente è tornata a essere con capello una grande nazionale, sabato sarà criptata, peggio che criptata, non si vedrà se non su internet. Com'è questa storia? Beh, è dato dal fatto che l'Inghilterra il suo l'ha già fatto, e l'ha già fatto fin troppo bene, per cui la squadra di Capello ormai non ha più bisogno di punti per qualificarsi, e quindi è evidente che quando le squadre devono giocare partite di qualificazione, essendo già qualificate, poi l'appeal che ne segue è decisamente inferiore, e tutto questo fa sì che quando in stati diversi dall'Italia, dove in realtà esiste un contratto, dove c'è una TV come la Rai che stipula un accordo, e quindi poi a prescindere dai risultati della nazionale, le partite della nazionale comunque le trasmette sempre a prescindere, in Inghilterra ad esempio non succede così, e quindi la Football Association deve negoziare di volta in volta i diritti della partita per trovare un broadcaster, per trovare una televisione che le trasmetta, e questa volta invece per la partita di sabato questa televisione non c'è. In realtà c'era, ed era questa televisione inglese chiamata 70, che però ha diciamo così qualche problemino ultimamente, quindi insomma è saltato l'accordo, e fin qui tutto bene, perché 70 è in fallimento, in procedura di fallimento, e quindi di fatto scomparirà. La cosa curiosa, e la cosa che secondo me stimola e deve stimolare subito una riflessione, è data dal fatto che questi diritti sono poi tornati sul mercato, evidentemente ha un costo non particolarmente elevato, io credo, adesso le cifre non le conosco, però non stiamo parlando di cifre impossibili, e nessuno si è presentato per acquistarli. Quindi, l'Inghilterra... Ma e a parer tuo, scusami ti interrompo, non si presenterà nemmeno da qui a sabato a parer tuo? Ma guarda, tutto dipende dalle cifre. Io credo che invece qualcuno potrà fare un'offerta, perché in queste situazioni, anche semplicemente per prendersi un po' di pubblicità, per... Salvatore della Patria è sempre un bel ruolo, no? Sì, è sempre un bel ruolo, e soprattutto se è a buon mercato è anche più, no, è anche meglio. Però insomma, ricordiamo che la partita è quella in Ucraina, tra Ucraina e Inghilterra, quindi è una partita in trasferta, ma credo il problema si porrà anche per Inghilterra a Bielorussia, che si giocherà mercoledì prossimo a Londra. È successo più o meno anche in Italia, mesi fa, se non anni fa, quando la Coppa Italia di fatto andava sempre l'arta per i diritti della Coppa Italia, andava quasi sempre deserta, e in alcune situazioni si era infilata Conto TV, che avendo una missione aziendale diversa da quella a trasmettere le sì. partite di calcio, si era invece accreditata, si era fatta conoscere anche per far conoscere poi i potenziali utenti anche tutto il resto della sua programmazione, che era molto differente, e lo ha fatto. Quindi io non escludo che ci sia qualcuno che poi proverà a trasmetterla, perché comunque trasmettere una partita dell'Inghilterra è comunque prestigioso, ed è comunque può dar lustro e dare pubblicità. Resta il fatto che le grandi emittenti, da Sky B ovviamente alle emittenti di Stato, alla BBC, hanno evitato di impegnarsi, perché probabilmente considerano che l'esborso anche minimo non vada a coprire il fatto che magari mettere un telefilm piuttosto che un varietà, uno show, non so che cosa vedano in Inghilterra, può dare più audience. Certo. con dei costi inferiori. Secondo me, scrive Fabrizio, il progetto di vendere il Milan c'era già da quando stava vendendo Kakà al City. Io penso di essere d'accordo con Fabrizio, ma penso che non sia un segreto di Pulcinella, nel senso che se una società così, con i risultati che aveva alle spalle, col palmarès di questi 20 e passa anni, rinuncia a primeggiare per sistemare i bilanci e i libri, vuol dire che la cessione è una delle ipotesi che in quel momento viene presa in considerazione, è una delle spiegazioni. Un altro ascoltatore scrive: ma De Laurentiis lo sa che quinquennio vuol dire 60 mesi? Beh, insomma, io penso di sì. De Laurentiis somiglia sempre di più a Cecchigori, e non solo per la comune provenienza cinematografica, ma insomma, fin lì credo che ci possa arrivare. Fabio, torniamo all'estero, e però restando anche in Italia, e cioè questa vittoria inattesa e certamente prestigiosa che l'Italia Under 20 ha ottenuto ieri contro la Spagna. Sì, io per chiudere il discorso di prima, per completare, credo che poi potremo farlo nelle prossime settimane, si imponga a questo punto da parte della FIFA e da parte poi dell'UEFA sui campionati europei un progetto di riforma delle gare di qualificazione, perché se l'Inghilterra non trova una televisione per essere trasmessa, vuol dire che il pericolo che poi accada anche con altre è forte. No, per quanto riguarda la World Cup, la Coppa del Mondo Under 20, diciamo che è nata sotto un astro non fortunatissimo, perché la stagione non è quella, non è la più favorevole, cioè un torneo che va in scena dal 24 settembre al 16 di ottobre va a cozzare con tutti i principali campionati che si disputano in Europa e anche in alcuni stati importanti del Sud America, e soprattutto fa sì che molte nazionali non abbiano mandato i loro rappresentanti migliori. Detto questo, detto anche del fatto che l'Italia in alcune situazioni nel girone di qualificazione non sia andato benissimo, il fatto invece di avere eliminato la Spagna, e insomma una vittoria 3-1 che tra l'altro è anche abbastanza spesso fedele di un certo tipo di credo, che è quello di aspettare e ripartire. Ebbene, insomma, è una vittoria che sicuramente nobilita il torneo, certamente a noi, visto che lo trasmettiamo, fa molto piacere, perché avere l'Italia è molto meglio che non averla, ed è una battuta anche molto banale, e tutto sommato finalmente un'Italia che batte la Spagna, che insomma, ultimamente non era capitato molto. No. Poi se noi pensiamo che tra questi ragazzi di Rocca possa esserci il fenomeno, forse sbagliamo, però le cose che ha fatto Mustacchio in questo campionato, secondo me, gli potranno valere qualche minuto in più nella considerazione del suo allenatore, poi quando tornerà a disposizione. Volevo sapere da Fabio Tavelli se questo investimento che Sky ha fatto su questo mondiale Under 20, al di là poi dell'Italia che va avanti e, come ci hai già detto, giustamente non guasta, ma se fino ad ora ha avuto dei ritorni. Ma Ritorin certamente ne ha avuti, perché sono partite nei quali diciamo che l'80-90% dei giocatori sono dei totali sconosciuti, almeno alle prime giornate, e quindi c'è sempre un tipo di ascolto e di interesse. Devo dirti che mentre nell'edizione del 2000 e, del 2005, se non ricordo male, quella che fece esplodere Leo Messi, sì, si era avuta la sensazione, insomma, che questo fosse veramente che avesse delle movenze divine. Forse in questa edizione abbiamo meno la sensazione che sia nato il fenomeno. Detto questo, però, due cose. Intanto il Mondiale Under 20 diventa parte di un pacchetto complessivo che le televisioni acquistano, e una volta che acquistano i diritti per i mondiali, quelli dei grandi, degli adulti, e poi insieme a questi ci sono la Confederations Cup e il Mondiale Under 20. Ma io credo che soprattutto per chi ha abituato i propri telespettatori a seguire molto calcio internazionale, e soprattutto cercando di dare anche un commento oltre che colorito, competente e attento anche magari alle storie personali di questi ragazzi, sì, perché ti assicuro che soprattutto sulle nazioni meno conosciute ci sono delle storie, degli aneddoti sempre molto interessanti. La possibilità di vederle c'è, poi magari se capitano durante una giornata nella quale c'è la Champions League è chiaro che tutto questo ne risente dal punto di vista dell'ascolto, ma la partita singola è la partita che non ha appunto non ha una partita che vada a competere con lei su un altro canale, degli ascolti interessanti li fa, quindi un occhio vale la pena, soprattutto a questo punto del torneo. Insomma, l'operazione un senso lo aveva prima e lo ha avuto a maggior ragione con l'Italia che fa fuori la Spagna e che va avanti. Un attimo di pazienza agli amici già collegati dalla provincia di Milano, da Varese, da Caserta, ho visto sul display. Restiamo in Spagna perché la prima caduta del Real Madrid, la prima sconfitta, che è arrivata contemporanea a quella della Juventus, tra l'altro, sembrano due cammini abbastanza paralleli, un po' di rumore l'ha fatto. Sì, devo dirti, due partite comunque non facili sulla carta, sia per la Juventus che per il Real Palermo Madrid. Palermo e Siviglia sono due bei campi, indubbiamente. Sì. Sì, sono due campi dove si può perdere. Il titolo di marca in questo momento sulla versione online è Toque a Pellegrini, perché sia Pellegrini che il direttore sportivo Pardesa e il direttore generale Valdano alla fine della partita, o meglio, diciamo che sono stati Pardesa e Valdano a chiamare Pellegrini, e c'è stata una riunione proprio in uno degli uffici dello stadio Sanchez Pizjuan per parlare subito a caldo con l'allenatore per quanto riguarda questa sconfitta, che se da un lato rilancia fortissimamente il Siviglia e credo dia anche una buona notizia, perché questa marcia a vittorie forzate nei confronti degli avversari da parte di Real e Barcellona, il Barcellona sta continuando, ma prima o poi qualcuno si sarebbe dovuto fermare, e per far sì che non fosse solo il classico sia all'andata che al ritorno a decidere il campionato della Liga, era il caso che qualcuno cominciasse a perdere dei punti, ma soprattutto persi contro il Siviglia, che si accredita di fatto come la terza forza nell'anno in cui Villarreal e Atletico Madrid fanno molta fatica. Per fortuna Siviglia, dopo qualche mese di appannamento, e soprattutto il Deportivo La Coruña, che invece ha avuto un appannamento molto più lungo, si stanno proponendo come forze più interessanti, insomma, per evitare che la Liga fra un mesetto sia già decisa. Quindi anche in Spagna le loro Fiorentine, le loro Sampdoria, sì, i loro Genoa, meno male. Sì, meno male. Speriamo che durino. Più durano e più non arriveranno in fondo, temo, né di là né di qua, però più durano. Non è come la Germania, non è certamente come la Germania, che è il campionato più equilibrato d'Europa, però qualcosa si sta vedendo. Certo. Gli ultimi due capitoli sono uno per Carlo Ancelotti, che è tornato da solo in testa alla classifica, contro il Liverpool, che mi pare abbia ottenuto a Stamford Bridge lo stesso punteggio negativo di Firenze, e poi per questo Bayern, che invece mi sembra decisamente in crisi. Scegli tu da dove cominciare. Ma guarda, io partirei dal Liverpool perché i giornali inglesi oggi sono abbastanza duri nei confronti di Benitez, ma non tanto, non sono indiscrezioni, ma sono frasi riportate da parte dei due proprietari americani della squadra di Liverpool, che hanno chiesto a Benitez come mai in un periodo di campagna spese di insomma 130 milioni, sì. Stiamo parlando di una squadra che ha fatto fatica, e stiamo parlando di una squadra che ha perso a Firenze e ha perso a Stamford Bridge, dove per carità si può perdere, non è che non si possa perdere. Tra l'altro notizia abbastanza certa, credo, è che vedremo Aquilani finalmente in campo con il Liverpool, e questo diciamo che è quantomeno una buona notizia sia per Aquilani, anzi soprattutto per Aquilani, ma anche per Benitez, che insomma ha speso qualche soldo per averlo. Giocherà sabato alle 15 contro il Sunderland, quindi potremmo anche vederlo. Il Chelsea sta facendo esattamente quello che ci si aspettava, non sempre incanta, anzi devo dire poche volte incanta, però quando davanti a Nelka la passa a Drogba o Drogba la passa ad Nelka, qualcosa succede sempre. La temperatura sale, la temperatura ambientale sale. Sì, spesso questo basta. Per quanto riguarda il Bayern, io credo che con 8 punti di distacco dal Bayer Leverkusen, ma soprattutto con una lunghissima serie di squadre davanti, a questo punto sarà il caso che più che la dirigenza si interroghi su Van Gaal, e io spero di no, perché credo che Van Gaal meriti di restare dov'è. E la sensazione però è che Van Gaal stesso debba interrogarsi su alcune sue scelte, perché quando si pareggia 0-0 in casa contro il Colonia, venendo da un altro pareggio in Champions League, cioè il Bayern di Monaco è sempre stata una squadra abituata a segnare molti gol, sì. E prendendo Van Gaal certamente la società non pensava di ridurre il numero di gol, soprattutto avendo a disposizione giocatori importanti come Robben, come Ribéry, come Gomez, come Klose e tanti altri. Questo però impone una riflessione: può questa squadra rinunciare a Luca Toni, può questa squadra fare a meno comunque di un attaccante che anche in Bundesliga ha sempre segnato un sacco di gol, pur con tutte le cautele del caso, parliamo di un giocatore in flessione di rendimento, in flessione fisica, certamente non nella fase migliore della sua carriera, però un pensierino credo che Van Gaal debba cominciare a farlo anche sulle sue scelte. Cioè, la sensazione è che fermati Robben e Ribéry il Bayern di Monaco diventi molto prevedibile, sì, e che possa andare tranquillamente a cozzare contro il muro difensivo senza... Sì, anche se io trovo molto interessante quel Müller, però interessante appunto per il momento, poi gioca in una posizione strana. Senti, Alfredo da Genova, per chiudere ci segnala Suarez, attaccante uruguaiano dell'Ajax, che Guardiola ha fatto visionare più volte. Alfredo si dichiara certo che sarà una futura stella. Prendiamo buona nota. Prendiamo buona nota e aspettiamo di verificarlo. Sai, purtroppo in questa fase storica il campionato olandese non è sto granché, soprattutto da delle indicazioni abbastanza va al punto che adesso mi perdoneranno i milanisti, ci stava arrivando, sì. Da lì, se l'ultimo grande prodotto è Unterlar, è una fase non particolarmente produttiva. Grazie, diciamo, Fabio. Ha prodotto meglio in passato, capiamocela così, su questo non c'è dubbio. Grazie Fabio, a presto. Buona giornata a tutti. Chiudiamo il collegamento con Fabio Tavelli, ringraziandolo ancora. Gli ascoltatori già in linea. Primo messaggio: provincia di Lecce, la nostra frequenza di Radio 24, scrive Tony, è disturbata da Radio Maria da parecchio tempo. Fate qualcosa. Guardi, dipendesse da me, farei anche di più, perché non succede solo da lei che questa frequenza, come dire, fastidiosa, a parer mio urticante, però insomma si fa quel che si può. Vedremo cosa si riesce. Maurizio, dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, grazie. Dica. Per avermi chiamato. Io volevo un parere da parte sua sull'ingaggio di Mazzarri. Sì. Io vedo che Napoli continua a prendere dei doppioni, a parte non avere una vera punta in aria, perché Quagliarella e Lavezzi sono due mezze punte, secondo me. Poi abbiamo doppioni come Maggio e Zunica, e Dabolo e Amsic, che sono due interni sinistri. E per me Mazzarri è un doppione di Donadoni, nel senso come modulo, perché nella Sampdoria ha sempre usato un 3-5-2. No, ecco, non vedo Mazzarri la soluzione ideale per questo Napoli. Volevo un suo parere. Io non so se la soluzione ideale c'era. Mazzarri ha un altro carattere rispetto a Donadoni, e dove è stato ha fatto bene. Dove è stato finora, Livorno mi pare, a Reggio Calabria è un'impresa, perché salvare la Regina con l'handicap che aveva, un'impresa eccezionale secondo me. Ha fatto decisamente bene anche a Genova, però sa, nel calcio tutto è relativo. Arriva Del Neri, che secondo me è un gradino sopra, e lo sta dimostrando, ma magari è un gradino sopra in quel momento, in quella circostanza, con quella squadra, e poi invece in assoluto magari è più bravo l'altro o un altro. Certo, la Sampdoria ha fatto un salto di qualità, ma il salto di qualità di Del Neri, secondo me, è che ha cambiato modulo, che gioca molto più sulle ali, che ha dato aria alla Sampdoria, però è frutto anche della compattezza che Mazzarri ha creato, e questa credo che sia una sua cifra di base. Dopodiché merita molti auguri per essere andato a lavorare con l'erede, ripeto, di Vittorio Cecchigori. Mimmo ha chiamato da Varese, buongiorno. buongiorno signor Garanzini. Io volevo parlare della Champions League per le squadre italiane che partecipano a questo torneo. Volevo dire, io vedo le squadre tipo quelle inglese o spagnole, o il Barcellona, o Manchester o Chelsea. Loro giocano con un ritmo diverso, un ritmo più sostenuto, giocano più veloci. Sembra che gli italiani ci abbiamo un passo un po' più lento confronto a queste squadre qua, perciò vedo che le italiane fanno fatica a qualificarsi quando giocano questi squadroni qua. Può essere, cioè che ci sia anche un... io in queste prime partite non l'ho notato in maniera particolare, può essere che ci sia anche una componente atletica, di passo proprio, ce n'è certamente una tecnica che credo più rilevante, ma insomma avremo tempo durante la stagione di verificarlo. Sono arrivati molti messaggi, molte mail di protesta, per esempio ne ho sotto mano una firmata Filippo che ha scritto da Messina, proprio da Messina. Cosa ne pensate del fatto che, a parte le iniziative individuali da parte di Catania, Palermo e dell'arbitro Rocchi, nello scorso weekend non è stato fatto nulla per ricordare le vittime della tragica alluvione di Messina? Ma ne penso molto male, evidentemente, e ne pensa molto male anche la FIGC, seppur in colpevole ritardo, visto che di questo minuto di silenzio riservato ai soli club siciliani, il presidente federale Abete si è scusato personalmente prima con il mondo del calcio e poi con il governo. Tra l'altro ieri ha fatto visita a Palazzo Chigi al sottosegretario con delega allo sport Rocco Crimi, che è anche un messinese. Quindi sin da ieri sera c'è stato il lutto al braccio per i giocatori di Torino e Ancona, ci sarà il lutto al braccio per Irlanda, Italia e Italia-Cipro, con tanto di minuto di silenzio. Una gaffe clamorosa, così l'ha definita lo stesso presidente federale. Si è parlato di questo anche stamane a Coverciano, al Raduno Azzurro. D'Agostino, Gaetano D'Agostino, che ha giocato 2 anni a Messina, ha detto l'Italia, ha detto una cosa molto, a parer mio, sensata, ma certamente molto pesante. L'Italia che si scandalizza per le vicende private di certi personaggi, ma non per tragedie come quelle di Messina, deve imparare a non dimenticare le sue sciagure, perché i recenti morti dell'alluvione indicano che prima del ponte sullo stretto servono tante altre cose per la sicurezza. Gaetano D'Agostino è siciliano di nascita e ha giocato, vi ripeto, 2 anni a Messina. Laura Vanossi sta registrando la conferenza stampa attualmente in corso di Marcello Lippi, che ha già mollato la sua spingardata preventiva, e cioè era inevitabile che la prima domanda o la seconda riguardasse Cassano, e la prima risposta è stata: mi avete stufato. Sentiamo Stefano da Firenze, buongiorno. Buongiorno Garanzini, io sì. Ieri purtroppo non ho potuto sentire la trasmissione, non so se ne avete già parlato. Volevo fare un parere da lei su una cosa. Siccome il calcio non è più come prima, è diventato un business. Ora, se gli errori arbitrali, cioè quando sbagliano gli arbitri non paga quasi nessuno, quando sbagliano i giocatori, ammonizioni, sgiornate e così via. Volevo dire, ora, se alla Fiorentina mancassero questi 2 punti per rientrare in Champions League, chi lo paga il danno alla Fiorentina? Lo risarcisce l'AIA? No, non credo. Lei è certo che si sia trattato di un errore così grave, Stefano? Ma avvedendo i filmati ho visto la moviola, la palla era entrata di 1 centimetro. Di quanti? Ora, di? Una ventina di centimetri. Una ventina di centimetri li ha indicati Girardino. La palla non è entrata di 20 centimetri, a parer mio se è entrata è entrata di 2 o di 4. Probabilmente era entrata. Lei ritiene che questa sia una decisione facile da prendere? No, assolutamente no. Volevo un parere da lei su questa cosa. Il parere mio su questa cosa, visto che lei ieri non era dei nostri, ed è grave perché ieri era il nostro 10° compleanno, ma insomma è perdonato, sto scherzando. Il parere lo stesso di ieri è questo. Io ieri ho visto una decisione arbitrale incredibile in senso negativo, ed è quella che ha preso, mi pare si chiamasse Mazzoleni l'arbitro, bergamasco, di Sampdoria Parma, perché non concedere il rigore su Pazzini con conseguente espulsione è, ripeto, per me è incredibile. Quella è un'azione in cui non puoi sbagliare a qualunque distanza tu arbitro sia piazzato. La decisione di Firenze, anche se in quel caso si tratta di una cosa incontrovertibile perché la palla è entrata, a differenza di un calcio di rigore che deve essere ancora realizzato eccetera eccetera, io non mi sento di buttare la croce sull'arbitro, mi sento di buttarla sulle tecnologie, perché pare che li abbiano provati e sperimentati dei palloni con i sensori, ma pare che questi sensori non funzionino o generino incertezze ulteriori o non diano comunque rassicurazione precisa. Credo sarebbe l'unico sistema, perché su un pallone che entra, lei dice di 20, io dico di 4 o di 2 o di 6 centimetri, insomma anche il giudice di porta prossimo Venturo o d'area, come si chiama, avrà una discreta difficoltà a valutare, perché non è detto poi che star dietro la porta possa portare un grande beneficio da un punto di vista di visuale, di prospettiva per situazioni di quel genere. E quindi finché non si trova il modo di far suonare, lo dico in maniera volutamente scherzosa, ma fino a quando non suonerà il campanellino, nel momento in cui la palla è entrata davvero tutta come deve entrare da regolamento, penso che sarà dura e penso che non siano quelle le ragioni per cui pigliarsela con un arbitro, perché ne ho visti di gol fantasma in passato in cui davvero c'era puzza di scandalo perché la palla entrava di 30, di 40, di 50 centimetri. Stavolta secondo me no, ma vediamo. Allora, la lettura promessa di prima, ripeto ancora, stiamo parlando del Buongiorno, la rubrica di Massimo Gremellini sulla copertina della Stampa di Torino, che è una rubrica spesso, non sempre, ma spesso volutamente ironica. Allora, il titolo è Un Milan di sinistra, il testo è Milano, 6 dicembre 2009, De Benedetti è il nuovo presidente del Milan, è l'attesa svolta della trattativa che ha tenuto il paese col fiato sospeso per 2 mesi. I primi d'ottobre un giudice del KGB di Milano aveva condannato il Cavaliere a risarcire l'ingegnere con 750 milioni per il pasticcio Mondadori. Dopo aver chiesto la sospensione del pagamento, o almeno la dilazione in rate da un euro pagabile in 750 milioni di anni, Berlusconi si è convinto a cedere un gioiello di famiglia. La sua scelta è caduta su quella che gli dà più grane, ma non è riuscito a vendere il TG1 e così ha virato sul Milan, valutato 850 milioni senza Kakà e 900 senza Galliani. La trattativa pareva arenata, invece stanotte le parti hanno trovato l'accordo. Berlusconi ha abbassato la valutazione a 7,50 e in cambio De Benedetti si è preso anche Galliani, che firmerà domani il primo editoriale su Repubblica. Il nuovo presidente democratico ha annunciato che trasformerà San Siro in un salotto, ingresso a sbafo, e una percentuale di 2 scrittori stanchi e un aspirante regista per metro quadro sul modello delle terrazze romane. Indette le primarie per la scelta dell'allenatore, termineranno un minuto dopo la fine del campionato. La squadra sarà ispirata ai criteri del politicamente corretto. Ci saranno un clandestino sul filo del fuorigioco, forse ancora Inzaghi, uno stopper donna e un portatore di handicap, Pistorius, che corre comunque molto più di Ronaldinho. La notizia dell'acquisto del Milan da parte della sinistra è stata accolta entusiasticamente dalla nuova fondazione di D'Alema, Forza Inter. Stefano ha chiamato da Genova, buongiorno. Buongiorno, volevo parlare di Donadoni. Sì. Nel senso, mi dispiace, ecco, perché io non sono tifoso del Napoli, ma trovo che sia un signore sfortunato, forse i suoi difetti maggiori saranno il suo carattere, ecco, non riesce a imporsi. Ovviamente io non so se la campagna acquisti del Napoli l'ha fatta lui o l'ha fatta Marino, è una campagna acquisti che era stata da tutti decantata come eccezionale, io trovo che invece gli abbia lasciato delle lacune enormi, la fascia sinistra non c'è nessuno, hanno una difesa che onestamente non è all'altezza. Mi dispiace, ecco, perché è un uomo sfortunato, ha avuto una storia anche in nazionale, tutto sommato sfortunata, perché poi ha perso quei rigori con la Spagna, che poi è diventata campione d'Europa. Forse un signore, ecco, in questo mondo qua bisogna avere altro carattere, forse più essere più duri, non lo so. Non lo so nemmeno io, Stefano, ma di sicuro condivido dalla prima all'ultima parola tutto quello che lei ha detto sul conto di Roberto Donadoni, in pieno proprio. Ricorda, scrive Giacomo, il famoso gol fantasma del Milan a Belgrado? Quello sì era scandaloso, verissimo Giacomo, infatti quello era scandaloso, ma non solo quello, tanti altri. Ricordo un pallone di Birov, mi pare, con l'Udinese respinto, credo proprio da Ciro Ferrara, forse, mi sembrava Ciro, dentro la porta a Torino, ma dentro di tanto. Allora lì sì, non c'è bisogno del sensore o della telecamerina, che per esempio invoca, vediamolo un po', ma quali sensori, basta una telecamerina sulla porta, scrive Luca da Bologna. Sì, ma la telecamerina però deve essere ben protetta, coperta, bisogna stare attenti perché arriva una spingardata che ti fa fuori le telecamerine. Insomma, fino adesso la soluzione non l'hanno trovata. Io posso garantire che, così come la FIFA non ammetterà mai la moviola in campo, almeno con chi c'è oggi, la FIFA e l'UEFA, con chi gestisce e governa il calcio oggi, io credo invece di sapere che loro sarebbero molto favorevoli alla tecnologia per sapere se la palla è entrata o se è rimasta fuori, ma non hanno ancora trovato una soluzione. Può darsi che la colpa loro sia questa. Ancora un ascoltatore e poi abbiamo un Lippi che arriva fresco fresco da Coverciano. Andrea ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Chiamavo per leggo che la Juventus cambia a livello societario e ci tenevo a dire questo. Io ho molta stima di Ferrara, che è oltre che essere stato un grandissimo, è anche un personaggio che probabilmente, oltre ad essere molto simpatico, probabilmente è anche molto promettente, ma io ritengo che la Juventus abbia fatto degli errori colossali a fine campionato l'anno scorso, soprattutto sul piano tecnico. Uno, mandando via Ranieri, che non so di che idea è lei, ma mandando via Ranieri che con quello che ha avuto in mano l'anno scorso ha fatto miracoli. Mm-hmm. E secondo, credo, a livello tecnico, prettamente tecnico, abbiamo una squadra che ha perso giocatori su giocatori durante tutta la stagione dell'anno scorso e mi pare che quest'anno abbia iniziato più o meno sulla stessa linea. Quindi niente contro Ferrara, ma credo che con quello che Ranieri ha fatto l'anno scorso, con 7-8 titolari fuori squadra perennemente, quest'anno avrebbe potuto, certo, fare davvero meglio. Penso proprio anch'io. Di sicuro se le ultime tre partite, ma non tanto, insomma, l'ultima certamente, e magari anche la precedente in casa, se ci fosse stato ancora Ranieri sulla panchina anziché Ferrara, io immagino che il quotidiano sportivo di Torino sarebbe uscito in edizione straordinaria chiedendo non il licenziamento ma la testa direttamente di Ranieri, come d'altra parte ha fatto più o meno lo scorso anno per alcuni mesi. Giorgio scrive: è strano che nella nostra epoca, con tutto quello che si riesce a inventare, non si riesca appunto a trovare un campanello, dice una cosa, una sirena, qualsiasi cosa che segnala che il pallone è entrato in porta. Io sono d'accordissimo con lei, però il fatto è che o stanno facendo i furbi perché non vogliono, oppure però allo stato pare che non abbiano trovato una cosa che dà garanzie autentiche. Restiamo in attesa. Sembra ieri. 6 ottobre 1991. A Bergamo il Milan batte l'Atalanta per 2-0 con reti di Van Basten e Albertini. La squadra di Capello aggancia il Napoli in testa alla classifica. Conserverà il primo posto per 72 giornate consecutive, fino al 31 ottobre 1993, quando perderà a Marassi contro la Sampdoria dell'ex Ruud Gullit. Saranno proprio i doriani, insieme alla Juve, a scavalcare i rossoneri, ma gli uomini di Capello riconquisteranno la vetta dopo una sola giornata per andare a vincere il terzo scudetto di fila. Anche questo, come sempre con Nicola Filippone, è un buon amarcord. Vi leggo due commenti a quel corsivo di Massimo Gramellini. Il primo è firmato Stefania e dice: si vergogni di avere il coraggio di leggere certe cose. Il secondo, che adesso vado a pescare ma devo far scorrere un pochino il display, buongiorno, mi dice per cortesia di chi è quel meraviglioso corsivo e su quale testata? Grazie e complimenti all'autore, Giuseppe Campanelli. Vedete dunque che rispetto a un tempo la forbice si è ampliata, nel senso che non è più mi piace o non mi piace, ma è meraviglioso oppure vergogna, e questo la dice lunga, secondo me, sull'estremizzazione del paese e del costume. Vabbè, torniamo in casa nostra con Vito, che ha chiamato da Trieste. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo intervenire su quella precisazione che ha fatto il tifoso della Fiorentina sul gol di Gilardino, se era dentro o fuori. Cioè, a prescindere, immagino che fosse stata dentro la palla, ma a prescindere che fosse stata anche non gol di un centimetro, io credo che poi alla fine il calcio è dettato da una serie di avvenimenti positivi e negativi per le squadre, che poi di solito dicono la verità. Quindi alla fine probabilmente se la Fiorentina andrà in Champions o non andrà in Champions, non sarà sicuramente per un centimetro di palla dentro o fuori, ma andrà in Champions se ha giocato bene, non andrà in Champions se non ha giocato bene. Insomma, voglio sapere il suo giudizio a tal proposito. Per il tifoso quella è un errore essenziale che condizionerà l'intera stagione. Alla fine saranno quei due punti lì che mancheranno, ma lo direbbe un tifoso fiorentino, ma un tifoso della Triestina anche, e non mi sto riferendo ovviamente a lei. in questo momento. Era proprio Ciro Ferrara, mi conferma un ascoltatore, e la palla era entrata di 80 centimetri. 80 mi sembrano tanti, amico mio, però un altro ascoltatore invece ricorda un gol fantasma, che non era affatto fantasma perché era entrato quello forse di un metro o quasi, un gol dell'Empoli sul campo del Torino. Credo un paio di anni fa, proprio nel giorno in cui il Torino combinazione festeggiava il centenario, e forse l'arbitro non se la sentì, perché era il gol della vittoria dell'Empoli a poco dalla fine, forse non se la sentì di infierire su un centenario, che sono sempre occasioni abbastanza rispettate, come dire, no? entro certi limiti. Sentiamo quel frammento in arrivo da Coverciano di Lippi, la prima conferenza stampa di una lunga serie bisettimanale. Manca un punto da fare sabato. Se non siamo capaci di farlo sabato, allora ne mancano tre da fare mercoledì prossimo. E poi ci siamo. È molto importante, certo. Molto, moltissimo. Ma non dal punto di vista mio, dal punto di vista di tutti, credo. Non si può ipotizzare perché non è giusto parlare oggi della partita successiva. Vediamo, intanto verifichiamo la disponibilità. Ci sono alcuni giocatori che hanno qualche problemino. Dobbiamo valutarne bene in uno, due, tre giorni le condizioni, la possibilità di recupero e poi vediamo. Un Lippi dimesso, mi pare, no? al momento, a meno che probabilmente, questo frammento non sia successivo a quella breve nota ansia che vi leggevo prima, in cui c'era stato subito lo scontro preventivo su Cassano e sul gradimento di Cassano, e questo poi abbia un pochino... abbia un pochino, come dire, abbassato i toni, smorzato la temperatura dell'incontro. Nicola in linea da Napoli, buongiorno. Salve Garanzini, sono sì. Nicola da Roma, Guarino. Ah, da Roma, diciamo, buongiorno. Sono già stato suo ospite. Buongiorno, sì, la ricordo, la ricordo. Sì. Per chiarire un po' questa questione tecnica, tante persone si chiedono come mai non sia possibile installare una telecamerina, eccetera. Il primo esperimento fu fatto dall'Adidas nel 2005 col pallone coi sensori e non andò bene. Sì. C'era stata in realtà un'installazione del CNR di Bari, fatta sul campo dell'Udinese l'anno scorso, di una serie di telecamere intelligenti, erano circa 6 telecamere per ogni porta, che in un certo qual modo erano messe in maniera da controllare la linea di porta. Il problema è questo: devono essere 6 telecamere tutte ad altissima velocità, cioè devono scattare parecchi fotogrammi al secondo, perché noi sappiamo che la palla deve entrare tutta, certo. E siccome in un fotogramma, cioè in un 25esimo di secondo, una palla può anche percorrere 10-15 centimetri, in realtà noi abbiamo bisogno di avere decine di fotogrammi per un solo secondo, cioè non solo 25, ma almeno 100, 150, 200 fotogrammi. Quindi si tratterebbe sia di installare un sistema che costa quasi 100.000 euro su ogni campo, ecco. In più un sistema molto delicato, perché si tratta di 6 telecamere che se non funzionano tutte contemporaneamente in realtà qualcosa può ancora sfuggire, e poi si tratterebbe di mettere un operatore alla moviola a guardare questa palla che... a velocità normale è impossibile vedere. Quindi Nicola, al di là della spesa dell'investimento tecnologico, ci vorrebbe poi ancora in ogni caso un occhio umano che decide alla fine, ma soprattutto, da quello che lei mi sta dottamente spiegando, comincio a capire perché allora FIFA e UEFA non sono molto d'accordo, perché dato che loro sono per la parità delle regole, a parer mio giustamente, su tutti i campi, e cioè dalla Champions League fino all'interregionale o alla terza categoria, beh, credo che diventerebbe un po' difficile applicare su tutti i campi un sistema così costoso. Per spiegare anche che una telecamera non basta. Non basta, non basta. E comunque ci vogliono telecamere molto tecnologiche, insomma, molto avanzate, perché devono avere una velocità di ripresa molto più potente di qualunque altra telecamera esista, quindi è un sistema molto particolare. Certo. Quello dei sensori invece fa lì più o meno per lo stesso motivo, insomma un pallone non può avere un solo sensore perché la palla deve entrare tutta, quindi deve avere vari sensori sull'intera sfera, e lei sa benissimo che una porta, in quel caso era un sistema radio, quindi una porta si può spostare, dei sensori si possono spostare, addirittura si possono rompere essendo in un pallone che viene calciato. Certo. E quindi ci furono vari problemi. Insomma, secondo me un giudice di porta sarebbe affidabile, perché nel caso di Firenze, secondo me, il guardalinee è impallato. Sarebbe affidabile, Nicola, sarebbe affidabile sì, ma non infallibile comunque. non... mille mai, però è anche bello del calcio. Certo. Auguri alla radio. Infatti, sì, grazie a lei, grazie. Grazie davvero a Nicola, che è diventato un corrispondente abbastanza abituale. Quando ci sono problemi tecnici, stavolta è addirittura intervenuto in onda, in diretta, altre volte mi manda delle dotte e sempre documentate mail e dissertazioni che poi servono e come contributo al programma. Serve tutto come contributo, anche chi scrive, ce l'ho davanti, che ridere, e si riferisce a Corsivoli Gramellini, sempre pronti voi comici a sfottere Berlusconi contro le Benedetti. E le farò una non ho il tempo di rileggerlo, materiale, se no, ma proverei con una simultanea se avessi il tempo, perché il bello che lei forse non è riuscito a cogliere, non me ne meraviglia, è che lo sfottò è diviso esattamente a metà, nella prima parte da una parte e nella seconda parte dall'altra, esattamente dalla parte che a lei non va così a genio. Andrà meglio la prossima volta, vedrà. Grazie allora a Laura Vanossi in redazione, grazie a Filippo Aureggi in regia, appuntamento regolarmente a domani.